che era meglio vomitare, uscire fuori al freddo della sera. Era venuto per ballare, per stare lì anche la domenica, per una donna da trovare. E anche se freddo, star due giorni al mare, sabato sera, settentrionale. Lui lo sa che stare a galla tra le luci e andare in giro con gli amici. Fonda e la tristezza ferma a te. Lui lo sa, irresistibilmente al centro. Dennis pensa in quel momento dentro di sé: io qui sto troppo bene, ove chi si vede, ma a me chi mi tiene, io e te non stiamo insieme. Il mondo torna al cesso che era prima. Dennis esce dal locale con una bionda stanca un po' bassina. Sabato sera, meno male che si è spostato il temporale. Laggiù sul mare e mano a mano con le luci se ne vanno anche gli amici che sono lì. Io vado chi?